Letture di Radio 24. Taglie col trucco per compiacere donne e uomini che vogliono credersi più magri. Il girovita si allarga, i fianchi sono più generosi, ma le taglie si restringono. Così per le donne la 44 degli anni 70 corrisponde alla 42 di oggi e per i maschi la 50 di allora oggi è una comoda 48. Le taglie più piccole danno l'impressione a chi le compra di essere più in forma. In gergo si chiamano vanity size perché fanno leva sulla vanità. In una società dove l'apparenza conta parecchio, anche la moda si adegua, chiude un occhio e fa passare per 42 quel che dovrebbe essere 44. Ma in fatto di taglie, viviamo in una Babele dove ogni azienda adotta le sue misure. E nei tour di shopping del fine settimana ci sono donne che facendo zapping tra boutique scoprono di avere una 40, una 42 o una 44 a seconda del marchio. Miracoli del marketing. Dagli anni 70 le donne hanno conquistato almeno 4 cm di girovita, passando da 66 a 70 cm. Ma quella che un tempo sarebbe stata una 44, oggi è una 42, spiega Anna Florenzi, docente di scienza e moda del costume alla Sapienza. In realtà, purtroppo, ci stiamo avvicinando al modello degli Stati Uniti, con donne sempre più tonde. Le silhouette lievitano, la taglia col trucco imperversa, ma le industrie dell'abbigliamento devono fare i conti con un grosso problema, l'invenduto per le taglie non azzeccate. Circa il 30% della produzione, come conferma il CAD Modeling Ergonomics, che lavora a contatto con le imprese del tessile e abbigliamento per definire gli standard antropometrici della popolazione. Il CAD Modeling Ergonomics annuncerà un censimento sulle vere taglie degli italiani. Per 5 mesi, a partire da ottobre, una task force girerà il paese con body scanner per radiografare il fisico di 40.000 italiani, così da fornire strumenti sempre più aggiornati sulla silhouette made in Italy. Ma il censimento servirà anche a definire le nuove etichette che decolleranno nel 2013, col contributo di tutte le nazioni dell'Unione Europea. La novità è che non avranno più il semplice numerino o la sigla small, medium, large. Finalmente si introducono le misure della conformazione, spiega Pietro Pindi Benetton, presidente della Commissione Tessile e Abbigliamento per l'Europa. Ecco perché per l'Italia è importante il censimento. I dati aggiornati ci permetteranno di far sì che le etichette siano espressione anche delle esigenze degli italiani. All'estero studi del genere sono più frequenti. La Spagna, ad esempio, per contrastare il dilagare delle modelle anoressiche, anni fa ha commissionato uno studio sulle forme reali delle donne. Obiettivo: costringere gli stilisti a portare sotto i riflettori modelle più in carne, come le donne di oggi. In Italia, l'azienda più consapevole e all'avanguardia è il gruppo Miroglio, che da più di 20 anni fa con successo abiti per donne vere. E con l'agenzia Ciao Magre ha contribuito a lanciare le modelle Plus Size, dalla 46 in su, la taglia del 35% delle italiane. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Laura Asnaghi e il trucco della taglia che ci fa dimagrire, pubblicato da Repubblica del 14 luglio. Letture di Radio 24. Appartiene ad un italiano il più vecchio bordello di Sydney, che ora si rinnova puntando su lusso e legalità. Allegra, Amira, April. L'elenco delle girls del Gateway, il più vecchio bordello di Sydney ancora in attività, supera quota 30, come gli anni del club che si trova a Leichhardt, una sorta di Little Italy, che prende il nome da un esploratore tedesco. Italiano è il proprietario del club, ma ci tiene a restare in incognito. Nonostante gli anni, questa istituzione cittadina ha saputo adeguarsi ai tempi. Alle elezioni del marzo scorso, nel New South Wales, lo stato di Sydney, ha vinto il Partito Liberale, promettendo tra l'altro la lotta alla prostituzione illegale. A causa dell'immigrazione asiatica sono infatti esplosi in città i club clandestini, che offrono sesso low cost, con donne schiave e condizioni igieniche precarie. Per rilanciarsi, il Gateway ha puntato sul servizio opposto, lusso e legalità. Suite dotate di idromassaggio, palo per la lap dance e, soprattutto, discrezione e tranquillità. La prostituzione a Sydney è permessa da una legge del 1988, nei bordelli e per strada, ma deve avvenire lontano da chiese, scuole e ospedali ed evitare reclama di sesso anale. Anche l'induzione alla prostituzione è considerata illegale. Quello che è vietato, spiega il manager del Gateway, è lucrare sui guadagni delle ragazze. Noi siamo come un albergo. Offriamo loro la nostra struttura, con le camere, la sicurezza e tutto il resto. Il manager del club è un trentenne di origini portoghesi che ha sposato la figlia del proprietario. Posizione difficile. Hai il privilegio di scegliere le ragazze, ma non puoi approfittarne. Lascia perdere. Le donne che fanno questo lavoro non sono partner ideali, racconta. Le asiatiche sono pochissime al Gateway. Ci sono australiane, americane, europee di lingua inglese e italiane. Sorpresa, non mancano le ventenni che partono con lo zaino per fare vita all'aria aperta nella terra del surf e scoprono che il mestiere più antico del mondo è più redditizio e meno faticoso della raccolta del mango e altri lavoretti da backpackers. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonio Armano, Affari riservati, dal numero di giugno-luglio del magazine IL Intelligence in Lifestyle. Un edificio di culto, un grande magazzino o anche una semplice stazione ferroviaria. In ogni grande città c'è sempre un punto particolare in cui si condensa lo spirito stesso della città. Questo punto è ciò che io chiamo cattedrale, scrive Luca Doninelli nel suo ultimo libro, dedicato alle grandi cattedrali della sua vita. Che cosa ci aspettiamo esattamente da questo incontro? Un'opera d'arte? I segni di una potenza esotica? Gli strumenti per capire una civiltà lontana? Lo spettacolo dell'ingegno umano? Qualcosa di bizzarro? Forse la risposta più adeguata è che ci aspettiamo quello che la parola dice, ossia l'incontro con un'entità proibita. Ci aspettiamo che i nostri occhi possano vedere quello che per secoli fu vietato, partecipando un po' anch'essi di quell'atto di violazione che rese queste mura finalmente accessibili. Ma anche questa è solo un'ipotesi. Che cosa ci si possa attendere da una visita come questa non si può dire con precisione. Però possiamo sapere quello che è bene non aspettarsi. Che cosa sappiamo? Che ricordi indotti abbiamo di una Cina che è, fra tutti i paesi della Terra, il più favoleggiato e il meno conosciuto? Il milione? Le drammatiche avventure di Francesco Saverio? Quelle ambigue ma comunque gloriose di Matteo Ricci? Il libretto rosso? I libri di Tiziano Terzani? Cara Cina di Goffredo Parise? Il carro armato dell'indimenticabile sequenza di Piazza Tiananmen? Gli involtini primavera? Il riso alla cantonese? La messa in piega a 6 euro a Milano? La prima tra le aspettative da riordinare è quella che ci muove verso un'altra cultura, nella speranza di vedere qualcosa di miracolosamente conservato, in questo caso una città nella città, che solo in tempi recenti è diventata visibile agli occhi di chi non aveva una parte nella complicatissima gerarchia dell'impero. Si spera sempre di trovare il negozio giusto, quello dove è possibile fare il grande affare. Chi venisse in Cina per coltivare simili passioni deplorevolmente europee, come quella per l'autentico o per l'antico, due concetti del tutto incomprensibili a est di Budapest, resterebbe deluso in una terra dove il disegno di un vaso, di una pettinatura o di un padiglione non hanno tempo. Qui, un padiglione edificato nel 1200 e uno ricostruito nel 1900 hanno lo stesso valore, perché la loro forma non appartiene né al 200 né al 900. Ciò significa che gli uomini di queste terre contano il tempo e interpretano concetti quali storia e sviluppo, in modo diverso da noi, spogliandoli di tutto l'apparato teorico metafisico dal quale noi, inglesi a parte, non riusciamo a distinguerli. Come mi dice un vecchio amico, grande economista, noi abbiamo il concetto dello sviluppo, loro fanno lo sviluppo. Noi discutiamo sulle categorie della storia, loro fanno la storia. E soggiunge, ridendo, bisognerà che cominciamo a preoccuparci, prima o poi. In realtà, abbiamo già cominciato. Quanto alle memorie, la prima di tutte è la memoria della Grande Muraglia. Occorre che l'uomo europeo, davanti a essa, si sbarazzi prima possibile di ogni attitudine ammirativa piena di e di «oh», capace di trasformare un cittadino della vecchia Europa in un perfetto idiota. In Israele esiste un muro lungo 800 chilometri, e nessuno si sogna di dargli un significato culturale. È un'infamia, e un'infamia resta. Così possiamo dire che la Grande Muraglia fu un'opera tanto mastodontica quanto stupida, che non è soltanto la più grande opera di ingegneria mai realizzata dall'uomo, ma anche un luogo bizzarro e un po' insensato, dove il sentimento della grandiosità e l'ammirazione per l'ingegno degli ingegneri, che ha dovuto risolvere tanti problemi, applicare tante variabili, non riescono tuttavia a distinguersi da un altro sentimento, di noia, di monotonia, di monocromia, come se l'enormità del risultato non fosse che la somma periodica di un piccolo numero costretto a ripetersi senza sosta. Ma c'è una seconda memoria con cui è necessario fare i conti, quella dell'immensa piazza Tiananmen, dove di giorno, tutti i giorni, a tutte le ore del giorno, una fila tanto lunga da doversi avvolgere intorno alla piazza stessa, attende davanti al mausoleo che sorge al suo centro il breve istante in cui gli occhi potranno vedere lui, il padre della patria, Mao Zedong. Qui, di giorno, le belle ragazze di Pechino lasciano il posto a un'umanità diversa, decisamente più brutta. Donne grasse, dal viso rincagnato o prognato. Vecchi raggrinziti e così senza età, da sembrare risucchiati in un anfratto introvabile del tempo. Uomini di mezza età commoventemente fieri di indossare l'antica divisa di Mao, che a distanza di tanti anni continua a essere il loro vestito più bello. Le mani sono dure, sgraziate, i capelli rappresi in ciuffi e appiccicati alla testa. Gli abiti sono di foggia vecchia, dai colori dozzinali, ed hanno l'impressione di essere stati confezionati in un tessuto sintetico che nessuno produce più da diverse decine di anni. È come se una mano strappasse e tirasse giù il poster sgargiante che la Cina ci aveva appiccicato davanti agli occhi. E noi comprendiamo allora che la Cina non si è ancora trasformata in quel poster, che la sua sterminata ricchezza e voglia di conquista è limitata, da qualche parte, nelle campagne, nel suo cuore, da una povertà ancora più sterminata. Se la programmazione può contare, nel giro di 3 o 4 generazioni, di vedere invertito il rapporto ricchezza-povertà fino alla scomparsa di quest'ultima, qualche difficoltà in più la programmazione incontrerà nello sradicare quella barriera dal cuore della Cina, dal suo intimo, dalla sua coscienza nazionale. Finché esisterà nella povertà del povero qualcosa di amabile, qualcosa che può contenere una ragione di orgoglio, i piani governativi incontreranno sempre qualche strana sorpresa. Il popolo cinese non è una massa di robot e lo dimostra questa fila davanti al mausoleo. Prego la mia hostess spia di chiedere a qualcuno in fila la ragione per cui è giunto fin qui. Lei rivolge la domanda a una donna grassa e anziana che cammina zoppicando per un dolore all'anca. La donna risponde in due parole e la sua risposta suscita il consenso di alcuni presenti che scuotono platealmente il capo facendo segno di sì. Un uomo dalla testa enorme, stretto nella vecchia divisa maoista e con un'unica striscia di capelli neri che gli attraversa la testa tentenna il dito all'indirizzo della donna, il labbro inferiore proteso in senso di profonda riflessione. L'hostess mi guarda, quasi sorpresa anche lei. Ha detto «è il padre». Gente come questa donna e come le persone che la circondano non si incontra facilmente per le vie di Pechino. Sono i poveri, quelli che vivono nelle campagne e il cui unico fondo pensione è costituito dai figli e dalle loro possibili fortune. Favorire le fortune dei figli unici sta alla Cina come all'INPS sta all'Italia. Sono quelli che qui a Pechino si possono intravedere, la mattina presto, addormentati in una aiuola spartitraffico, tra il caos delle auto che non finisce mai e che tinge l'aria del crepuscolo di un viola inquietante, nell'attesa che un vigile venga cortesemente a svegliarli e a pregarli di non farsi vedere troppo in giro, perché questa sarà, presto, la capitale del mondo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Luca Doninelli, Cattedrali. Garzanti Editore, 280 pagine, €18,60.